Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Le economie europee si stanno stabilizzando, i paesi dell'Eurozona hanno iniziato un percorso per una modesta crescita, così il rapporto mensile dell'OCSE, secondo quanto illustrato al Bled Strategic Forum dal vice segretario generale Yves Leterme. Vediamo dunque se questo, vedremo anzi se queste tendenze si rafforzeranno nelle prossime settimane. Intanto oggi di fatto primo giorno di scuola, si può così dire, per il Parlamento, per la Commissione che torna al lavoro a Bruxelles. Allora abbiamo chiesto a Valeria De Rosa di farci il punto su questa ripartenza. Sentiamo. Archiviate le vacanze, anche Bruxelles si avvia ad aprire vecchi e nuovi capitoli. L'economia e l'andamento della crisi in primo piano, con i dati economici che spazieranno dai prezzi alla produzione industriale ai numeri sul PIL del secondo trimestre, poi commercio al dettaglio e bilancio dei pagamenti. Sarà la situazione siriana però a occupare la scena. Ne parlerà nella conferenza stampa mensile in calendario oggi il segretario generale della NATO, così come sarà affrontata dalla conferenza annuale dei capi delegazione, aperta dall'alto rappresentante degli esteri Catherine Ashton. Damasco sarà poi il convitato di pietra a San Pietroburgo, dove giovedì e venerdì si svolgerà il G20. Riprendono anche i lavori delle commissioni parlamentari. Gli eurodeputati si ritrovano sul tavolo il voto sul bilancio europeo per il 2014, con l'annosa questione delle fatture non pagate negli ultimi 2 anni. La Commissione Affari Sociali discuterà la negoziazione del Fondo Europeo di Globalizzazione per reintegrare e formare i lavoratori delle aziende colpite dalla crisi. Il 5 settembre, invece, in Commissione Libertà Civili, al via la prima sessione di audizioni sul Datagate. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra i capitoli appunto che si riaprono c'è l'importante dibattito sulla sicurezza dei prodotti. Una iniziativa che viene portata avanti da tempo dalla Commissione prevede la riapertura appunto della cosiddetta etichettatura Made in. Valeria De Rosa ne ha parlato con l'eurodeputata del PD Patrizia Toia, che è vicepresidente del gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento. Tutto questo provvedimento sulla sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato è una revisione di direttive già in essere che va a migliorare proprio la certezza e della garanzia della sicurezza, cosa che a tutte le industrie corrette, che sono la gran parte insomma, interessa molto, perché purtroppo molti prodotti non certificati e non a norma circolano. Pensiamo alle gomme delle auto, pensiamo a tantissimi prodotti in tantissimi settori, non quelli qui normalmente si pensa alla contraffazione, che sono delle borse eccetera. All'interno di questo pacchetto è stato ripreso il discorso del Made in, che quando era stato trattato dalla Commissione Commercio Internazionale si è arenato. Il tema diciamo poteva sembrare ormai uscito dalla scena europea, in realtà si è potuto riprendere all'interno di questi regolamenti con una base giuridica più forte, perché è legato alla garanzia del mercato e della difesa dei consumatori, non al commercio internazionale, e quindi diciamo che ci apre una finestra di opportunità per rilanciare questo tema. Torniamo per un momento a Bled in Slovenia, dove abbiamo aperto questo GR. Infatti nel corso del forum, del Bled Strategic Forum, il punto sull'economia europea con un aggiornamento che arriva da Yves Leterme, il vice segretario generale dell'OCSE, dice: l'economia cinese vale oggi come quella europea, ma entro il 2030 varrà esattamente il doppio. L'Europa si deve preparare a questo scenario. Bene, con questa previsione abbiamo concluso il nostro appuntamento con Europa 24, che naturalmente torna domani intorno alle 13:15. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.